Letture di Radio 24. Dal 1927 la rivista americana Time elegge la persona dell'anno, una specie di Nobel dell'importanza. Un riconoscimento prestigioso vinto negli anni passati da Barack Obama, Bono Vox, Bill Gates, ma anche Hitler e Khomeini. Quest'anno il vincitore designato dai lettori era Julian Assange, l'autore di WikiLeaks, ma è stato sconfitto all'ultimo minuto dall'inventore di Facebook, Mark Zuckerberg. La scelta era talmente delicata che in un momento di grande crisi dei media, la direzione di Time Magazine ha osato andare contro il voto popolare in nome del politically correct. E così il fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg, è stato insignito a sorpresa del titolo di persona dell'anno 2010 dal comitato editoriale del prestigioso settimanale, che ha bocciato il padre di WikiLeaks, Julian Assange, incoronato alla vigilia sia dai lettori sia dai bookmaker. In un certo senso Zuckerberg e il fondatore di WikiLeaks sono due volti della stessa medaglia, si è giustificato il direttore di Time, Rick Stengel, che 3 settimane fa aveva intervistato il capo di WikiLeaks su Skype. Entrambi esprimono un desiderio di apertura e trasparenza. Ma mentre Assange attacca governi e istituzioni con una trasparenza involontaria e con l'obiettivo di depotenziarli, Zuckerberg permette agli individui di scambiarsi volontariamente informazioni con l'idea di dare loro potere. In altre parole, Assange vede il mondo pieno di nemici reali e immaginari, Zuckerberg lo vede come pieno di amici potenziali. Grazie all'importanza planetaria dei suoi oltre 500 milioni di utenti conquistati in soli 6 anni, Facebook oggi è diventato il terzo paese più grande del mondo e rappresenta circa un decimo del pianeta, insiste Stengel, che definisce il 26enne studente di Harvard come un capo di Stato in t-shirt. Contrariamente all'immagine negativa resa dal film di David Fincher, The Social Network, candidato a ben 6 Golden Globe in odore di Oscar, è molto affabile e pieno di spirito, anche se le telecamere lo intimidiscono. La giustificazione non ha convinto i lettori di Time, che avevano relegato il fondatore del social network in 10ª posizione con poco più di 18.000 voti contro i 380.000 di Assange, seguito dalla cantante americana Lady Gaga con 146.000 preferenze. È una scelta che poteva andare bene nel 2005, non certo oggi, ha twittato Jun Hashim, mentre Anonymous Irk accusa Time di essersi trasformato nell'odiata Fox News. Sulla blogsfera, molti hanno paragonato la scelta politica del 2010 a quella del 2001, quando 3 mesi dopo l'attentato delle Torri Gemelle, il braccio di ferro tra Osama Bin Laden e l'allora sindaco di New York, Rudy Giuliani, fu vinto da quest'ultimo a dispetto della ben più tentacolare e nefasta influenza del principe del terrore. Le polemiche che l'accompagnano sono una sorta di rituale di fine d'anno almeno dal lontano 1938, quando venne scelto Adolf Hitler, seguito l'anno successivo da Joseph Stalin, che fece il bis nel 1942. Per non parlare poi dell'Ayatollah Khomeini, incoronato nel 1979. Eppure dalla sua nascita nel 1927, almeno sulla carta, la lista non ha mai avuto la pretesa di premiare i personaggi migliori, ma semplicemente quelli che hanno influenzato maggiormente gli eventi degli ultimi 12 mesi. Lo scorso anno la palma era andata al capo della Federal Reserve Ben Bernanke e nel 2008 al neoeletto presidente Barack Obama. Zuckerberg è il secondo più giovane dopo Charles Lindbergh, scelto nel 1927 a soli 25 anni per la sua trasvolata atlantica. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Alessandra Farkas dal titolo Facebook ha battuto WikiLeaks, dal Corriere della Sera del 16 dicembre. Letture di Radio 24. L'ultimo in ordine di tempo è il caso delle aziende di trasporto pubblico di Roma. 854 assunzioni tra figli, mogli e nipoti. E non si può negare che di parentopoli è piena l'Italia. Medici con figli medici, professori con figli professori, giornalisti con figli giornalisti. Senza voler giustificare questa mala pratica, la sociologa Chiara Saraceno ricorda però che la rete di protezione casalinga si rivela indispensabile quando lo Stato non offre l'assistenza necessaria, anche se alla lunga diventa una gabbia per gli individui e la società stessa. A metà degli anni 50 del Novecento, l'antropologo statunitense Edward C. Banfield avanzò la tesi che alla base del mancato sviluppo del Mezzogiorno vi fosse un atteggiamento culturale da lui definito familismo amorale. Esso sarebbe caratterizzato dall'attitudine a massimizzare unicamente i vantaggi materiali di breve termine della propria famiglia nucleare, supponendo che tutti gli altri si comportino allo stesso modo. La tesi ebbe molta fortuna, fino a diventare, soprattutto all'estero, la spiegazione semplificata di tutti i mali e le arretratezze italiane, di una società in cui il «tengo famiglia» è la fonte di legittimazione di ogni piccolo e grande abuso, e dove l'egoismo familiare può allargarsi a comprendere rapporti clientelari, quindi fondati sul particolarismo degli interessi e delle alleanze, ma sempre a scapito dell'individuazione di un bene comune per il quale operare. La tesi del familismo amorale come spiegazione sia dell'arretratezza economica e sociale che della mancanza di civismo è stata periodicamente oggetto di critiche. Tra le più importanti e di maggiore attualità, quella che inverte il rapporto causa-effetto. Il familismo amorale è la conseguenza, non la causa, della mancanza di condizioni materiali e politiche che limitino la necessità di affidarsi solo alla propria famiglia come unico ambito su cui si può contare. È l'assenza di uno Stato e di sistemi di regolazione sociale ed economica funzionanti sulla base di regole non idiosincrasiche, particolaristiche, clientelari, che genera familismo amorale e rafforza i rapporti e atteggiamenti clientelari, non viceversa. Non vi è dubbio che in Italia la famiglia, allargata verticalmente a comprendere tre generazioni, è per molte persone l'unica risorsa certa in assenza di un sistema di welfare universalistico. Lo è per i giovani dai rapporti di lavoro incerti, privi di una rete di protezione decente quando perdono il lavoro. Lo è per le giovani mamme, che senza l'aiuto delle nonne difficilmente possono rimanere nel mercato del lavoro, stante la scarsità dei servizi per la primissima infanzia e le troppe scuole che funzionano part-time. Lo è per le persone non autosufficienti, che possono spesso contare solo sulla disponibilità di un, spesso una, familiare. È una risorsa preziosa la solidarietà familiare, ma può diventare una gabbia per chi non può rifiutare di prestare solidarietà, perché sa che non ci sono alternative, ma al prezzo di essere dilaniato da conflitti di lealtà, o di non farcela reggere tutto, o di dover rinunciare a legittime aspirazioni. Per chi soffre una dipendenza coatta che toglie dignità e autonomia. E naturalmente, non tutti possono contare su una famiglia che ha risorse e voglia per fornire la solidarietà necessaria, e comunque la solidarietà familiare non è una risorsa infinita. Tuttavia, in Italia si discute molto del ruolo principe della solidarietà familiare come alternativa al welfare state e dei rischi dell'egoismo individualistico che porrebbe limiti a quella solidarietà. Si discute meno dei costi individuali e familiari di tale affidamento esclusivo e sui rischi di rafforzamento delle disuguaglianze sociali che comporta. Ancor meno ci si interroga sui rischi che tale affidamento esclusivo costituisca un terreno fertile per lo sviluppo del familismo amorale. Salvo poi sorprendersi quando la solidarietà familiare si traduce in uso privato di risorse pubbliche a beneficio dei propri familiari e di quelli dei propri clienti ed alleati. Avete ascoltato l'editoriale di Chiara Saraceno, Se il welfare non basta, pubblicato da Repubblica di giovedì 16 dicembre. Sessant'anni fa nasceva lo scatolino magico per liberare gli spettatori dagli spot, ma ora nella casa high-tech ce ne vuole uno per ogni gesto, dal frigo al condizionatore. Al comandante Eugene McDonald Jr. non piaceva la pubblicità in TV, anzi la odiava. Ed era convinto che la odiassero anche quelle centinaia di migliaia di americani che acquistavano i suoi televisori. Dopo la Prima Guerra Mondiale aveva fondato la Zenith, una delle più grandi industrie di radio e TV statunitensi. Apparecchi di qualità, con mobili in mogano e valvole garantite a vita, che rischiavano però di rimanere invenduti perché la gente non poteva più seguire un programma televisivo dall'inizio alla fine, ma era costretta a sopportare le interruzioni della pubblicità. Così, poco prima del Natale 1950, lanciò il primo telecomando per la TV. Si chiamava Lazy Bones e sulle riviste di allora era presentato come l'ultimo sogno americano. Marito e moglie in poltrona si godono lo spettacolo. Il bambino ride in braccio alla madre. Il telecomando, da acquistare a parte, è un aggeggio di bachelite da stringere in pugno, con un pulsante in alto per cambiare canale. ma si collegava al televisore con un cavo lungo 6 metri, inevitabile occasione di inciampi e cadute. Per questo la Zenith ne presentò una versione senza fili nel 1955, il Flashmatic, e una, ancora migliorata, l'anno dopo, lo Space Command, inventato da Robert Adler, padre di tutti i telecomandi moderni. Nato per cancellare la noiosa reclame, il telecomando apre però un'altra possibilità, forse più interessante. Permette di saltare da un canale all'altro e di costruirsi una TV su misura, prendendo il meglio da ogni emittente. Zapping. Questo naturalmente in America, visto che in Italia fino alla metà degli anni 70 i canali televisivi saranno solo due. Da noi il telecomando non si diffuse immediatamente e fu invece la pubblicità a trasformarsi in un genere a sé. Era il tempo di Carosello. Attori e cantanti famosi presentarono il loro volto per la reclame. A vederle oggi sembrano cortometraggi più che spot. Gli anni 80 portarono una duplice rivoluzione. Tecnologica, con i raggi infrarossi al posto degli ultrasuoni, e sociale, perché con l'arrivo dei produttori giapponesi il prezzo si abbassa, quindi la televisione, dopo il salotto, occupa la cucina e la camera da letto. Oggi un terzo degli europei ha tre o più televisori in casa e anche i telecomandi si sono moltiplicati esponenzialmente. Prima il videoregistratore, poi l'impianto stereo, il DVD, il computer, il decoder, la radiosveglia, il dock per l'iPod, il condizionatore e domani il frigorifero e il microonde. Tutti difficili da usare, secondo l'88% degli italiani, e incompatibili tra loro, tanto che il telecomando universale è diventato un gadget mitologico che si incarna di quando in quando nei cataloghi di svariati produttori. In pochi però riescono ad affrontare le complesse procedure di programmazione e farne qualcosa più di un soprammobile. Intanto Sony e Logitech hanno appena presentato telecomandi dotati anche di tastiera e di una specie di mouse per comandare le TV che si collegano al web senza computer. E se l'Apple TV va in controtendenza con un telecomando minimalista appena 3 pulsanti, le novità arrivano dai videogiochi. La Nintendo Wii e la PlayStation si comandano a gesti. L'Xbox, con Kinect, addirittura fa a meno del controller. Tra i televisori, LG offre sui modelli top un telecomando che si impugna come una bacchetta di un rettore d'orchestra. Samsung ne ha inventato uno che permette di comandare tutti gli apparecchi di casa e anche di seguire sullo schermo incorporato un programma diverso da quello della TV, mettendo fine ai litigi familiari. Assomiglia molto a uno smartphone. Che sia questo il nostro prossimo telecomando? Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Bruno Ruffilli nel segno del telecomando pubblicato dalla Stampa del 16 dicembre.